letto nella piaga, questa vita che si piega ma nella tasca alla fine non ci sta. E oltre ogni buona volontà resto solo. È un pallido risveglio, io che non batto ciglio al buongiorno e un sudario di città. E oltre ogni fallibile realtà resto solo. Vivo girandomi i pollici e contandomi vertebre. Non basta, non basta. Nei pianeti, negli abissi, sanno essere casa per me e per il niente che porto, a nessun porto in cui attraccare. Nei segreti degli amanti stanno stelle polari che non conoscono inganni, ed io mi perdo. C'è un tarlo nella testa che non mi perde di vista, mio compagno di bevute in qualche bar. E oltre ogni plausibile realtà resto solo. Chiedi alla polvere un posto per piangere, ma senti che niente ti basta, ti basta. Nei pianeti, negli abissi, sanno essere casa per me e per il niente che porto, a nessun porto attraccare. Nei segreti degli amanti stanno stelle polari che non conoscono inganni, ed io mi perdo. Io mi perdo.